Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo dell'informazione e di giornalisti italiani, e cominciamo con un libro che ripercorre la storia dell'informazione nel nostro paese. Ne è autore uno studioso di Torino, Mauro Forno, che ha scritto per La Terza Informazione e Potere, storia del giornalismo italiano, 314 pagine, 22 euro. Appunto, informazione e potere, ci sono molte storie del giornalismo, scrive Forno, però il tema al quale egli si è dedicato è soprattutto quello di investigare questo rapporto, come il potere nel corso dei 150 anni della storia unitaria del paese abbia cercato costantemente, fin dall'inizio e naturalmente fino a oggi, di condizionare appunto l'informazione e la vita dei giornalisti. Ma di questo parliamo con l'autore. Buongiorno a Mauro Forno. Buongiorno. Buongiorno professore, allora lei si occupa in questo libro dedicato all'informazione in Italia soprattutto di questo nesso, del rapporto che c'è stato fra l'informazione e il potere, un rapporto che secondo lei ha caratterizzato molto la storia dell'informazione del nostro paese. Sì, assolutamente. I miei studi iniziano più o meno all'indomani dello Statuto Albertino e giungono quasi fino ai giorni nostri, e devo dire che una delle linee di continuità, un filo rosso che collega tutti questi decenni è proprio questo, quello del frequente intervento, soprattutto a livello politico, ma anche ad altri livelli, sull'informazione, da agenti esterni rispetto all'informazione. Ecco, però lei scrive a un certo punto che il mercato dell'informazione, lasciato a se stesso, raramente ha saputo garantire le condizioni necessarie per una auspicabile autonomia. Quindi l'intervento esterno era necessario o è stato eccessivo nel nostro paese? Il problema è questo, e qui si entra nel terreno, secondo me, anche dei finanziamenti all'editoria, ai giornali. Quando il finanziamento all'editoria è dato secondo determinate regole stabilite e in qualche maniera logiche, ben venga, se questo serve appunto a garantire una pluralità dell'informazione. Il problema è che in Italia molto spesso, già all'indomani dell'unità, i finanziamenti, ad esempio i finanziamenti occulti alla stampa, sono stati elargiti in maniera del tutto svincolata da queste logiche, cioè la tendenza dei governi, soprattutto del Ministero degli Interni, ma in seguito anche della Presidenza del Consiglio, era quello di favorire esclusivamente le testate che in qualche maniera potessero sostenere l'attività di governo, potessero in qualche maniera assecondare gli obiettivi dei governi di turno, e questo naturalmente è un piano molto diverso. Però queste patologie in che misura sono solo italiane? Non sono solo italiane, ma devo dire che in Italia, ad esempio la Francia, la vicina Francia, ha tutta una tradizione anche in questo senso, però devo dire che l'Italia presenta alcune caratteristiche abbastanza tipiche, che si legano anche ai modi e ai tempi attraverso cui si è venuto a creare e a formare lo Stato nazionale. Cioè, l'impressione che io ho tratto dalle mie ricerche, ormai sono più di 10 anni che lavoro su questi aspetti, è che sin dall'inizio i governanti avessero una paura folle della libertà di informazione e che quindi fossero costantemente propensi in qualche maniera a limitarla, a intervenire, a fare in modo che un eccesso di libertà non potesse rimettere in gioco tutto quello che era stato faticosamente creato attraverso il Risorgimento, poi gli anni successivi. Questo timore emerge in maniera chiara, sarà poi il fascismo ad accentuarlo, però sotto certi aspetti e con tutte le dovute cautele che si devono in questi paragoni, devo dire che almeno il primo Mussolini inventa relativamente poco, ma si limita a estremizzare metodi di azione che già erano stati utilizzati dai suoi predecessori. E l'Italia Democratica come reagì a questo andazzo? L'Italia Democratica e Repubblicana si trovò innanzitutto ad avere un apparato che era stato costituito per fini particolari, ma con tutto un personale anche che si riferiva a questo apparato che andava ricollocato. E di fatto anche all'interno dell'Italia Repubblicana si crea una struttura che in maniera molto larvata però riprendeva in qualche maniera gli obiettivi che il Ministero della Cultura Popolare si era proposto durante il ventennio. È chiaramente un contesto completamente diverso anche dal punto di vista legislativo, chiaramente, però già il fatto che molti degli ex dipendenti o funzionari del Ministero della Cultura Popolare siano poi transitati all'interno di una struttura interna alla Presidenza del Consiglio che si proponeva proprio di controllare l'informazione, si chiamavano a caso Servizio Informazioni, ed è questo abbastanza sintomatico. Un capo di divisione come Silvano Spinetti, durante il fascismo, è un capo di divisione del Ministero della Cultura Popolare, viene trasferito, traslato all'ufficio informazione, ci rimarrà per diversi anni, ereditando tutti i metodi, chiaramente, o almeno una parte di quei metodi che aveva utilizzato durante il periodo fascista. Tra nel discorso anche della continuità degli apparati statali e degli uomini posti in determinate sì, posizioni. Questo è un problema che non si pose solo per l'informazione. Lei a un certo punto pone anche un po' il problema però del ruolo dei giornalisti, e per esempio allude al fatto che la famosa definizione di Pans dei giornalisti dimezzati è purtroppo una definizione ancora valida. Sì, questo poi qui si entra più che nel discorso delle strutture, si entra nel discorso relativo alle persone e a come anche sono stati gestiti forse nel corso dei decenni alcuni istituti che in qualche maniera ruotano attorno al mondo dei giornalisti, come ad esempio l'Albo e l'Ordine Professionale. Ma qui il discorso si pone su un piano diverso, cioè il mio lavoro tende soprattutto a privilegiare le strutture più che gli uomini. I giornalisti bravi, i giornalisti indipendenti ce ne sono stati in passato, ce ne sono oggi e sono sicuro ce ne saranno anche nei decenni a venire. E quali saranno secondo lei le conseguenze del nuovo mondo che ci aspetta, nel quale l'informazione non passerà certo nella misura preponderante dei giornali? Io su questo sono in parte scettico e in parte ottimista. Cioè io devo dire che effettivamente la rivoluzione informatica ha cambiato molto le prospettive. È evidente che oggi è concesso al lettore, è concesso una libertà anche di intervenire sui contenuti del lavoro dei giornalisti che all'epoca, anche solo 20 anni fa, era impensabile. E questo è un grosso passo in avanti. Oggi si può dialogare attraverso il web, chiunque potenzialmente può caricare sul web dei contenuti, può in qualche maniera avere qualche possibilità di essere letto, di essere commentato. Un lettore può oggi commentare gli articoli, in qualche maniera venire a contatto diretto anche col giornalista. Tutto un mondo che qualche decennio fa era assolutamente sconosciuto. Credo peraltro che questo tipo di approccio sia ancora limitato a una parte relativamente minoritaria di popolazione. Il fatto che gran parte della popolazione resti vincolata ancora a vecchi strumenti di comunicazione, i giornali in calo, certo, ma la TV ad esempio, questo mi sembra un dato ancora abbastanza evidente. Anche se i giovani passano tutti i nuovi mezzi. Sì, ma i giovani in Italia sono sempre meno, gli anziani sono molti e non credo che siano poi milioni le persone che oltre i 60-70 anni navighino regolarmente su internet. Cioè io questi discorsi sul fatto che anche recentemente mi intervistava un altro suo collega e mi chiedeva: lei crede che veramente oggi andare in TV faccia più male che bene ai politici? Ecco, io credo che quello che fa la differenza sia quello che si va a dire in televisione, certo. Ma non credo che la televisione in quanto tale faccia troppo male ai politici. Io fossi un uomo politico e avessi il controllo di una televisione me la terrei ben stretta. Infatti lei parla bene anche di un mezzo altrettanto ormai antiquato come la radio. Molto bene. Visto che siamo in una radio. Ma la radio credo che sia uno dei vecchi strumenti, vecchi perché la sua sperimentazione nasce in Italia di fatto durante il fascismo, sia uno degli strumenti che ha saputo meglio rinnovarsi. È innegabile che oggi la radio non è uno strumento prevalentemente ascoltato da persone anziane, ma da giovani. E questo, se si pensa all'offerta che oggi hanno i giovani rispetto ai nuovi media, è un dato senz'altro significativo e va a merito di chi ha saputo investire in questo settore. In questo senso anche la presenza sulla radio di personaggi di un certo rilievo ha molto aiutato. Bene, diceva io non vado più in radio, vado in TV, adesso ci sono molti uomini di spettacolo che vanno in radio, scelgono di andare in radio, io potrei citare Fiorello ad esempio che è un caso eclatante, ma ce ne sono molti altri, questo è sintomatico della vitalità di un mezzo. Di questo siamo convinti anche noi. Grazie a Mauro Forno, buona domenica. Grazie a lei, arrivederci. Grazie mille. E sul tema dell'informazione segnalo anche il libro di James Gleick, che è un giornalista scientifico americano, che si intitola L'informazione, una storia, una teoria, un diluvio, pubblicato da Feltrinelli, 460 pagine, 35 euro, tradotto da Virginio Sala. In una rivista scientifica del 1948 compariva per la prima volta negli Stati Uniti la parola bit, a opera del ricercatore Claude Shannon, 22enne allora, che avrebbe dato una svolta alla teoria della comunicazione e dell'informazione. Ora l'informazione dilaga e naturalmente si è molto trasformata, per esempio da quella distribuita con i tamburi africani dai quali prende le mosse proprio questo libro. E poi ci sono tutti i passi avanti, l'alfabeto naturalmente, le prime macchine, i primi tentativi come una sorta di calcolatrice o addirittura di paleocomputer che fu progettato ma mai realizzata da Charles Babbage tra il 1823 e il 1842, che consente appunto all'autore di soffermarsi sul modo in cui l'informazione si è diffusa in queste ultime centinaia di anni. E oggi a che punto siamo arrivati? Ormai il cablaggio del mondo, come lo definisce l'autore, sta dando vita, secondo alcuni, a un nuovo organismo globale, secondo altri, addirittura, cito dal suo libro, a un mondo di eccesso e ingordigia di informazione, di specchi curvi e di testi contraffatti, blog indecenti, fanatismo anonimo, messaggi banali, chiacchiere incessanti, il falso che caccia il vero. Questa è l'immagine pessimista. Lo scrittore forse ha un'opinione diversa, leggermente meno drammatica. Lo stesso autore infatti sottolinea l'ansia che una raffica continua di dati può provocare in un mondo che, come egli stesso scrive, vede tutti i bit creati uguali e nel quale l'informazione è separata dal significato. Ma ripeto, dicevo, l'autore è ottimista rispetto alla visione più infernale della diffusione dell'informazione. Gli scrive che le possibilità infinite sono una buona cosa, non cattiva. Il disordine senza significato va sfidato, non temuto. Insomma, conclude Gleick, siamo tutti clienti della biblioteca di Babele ora e siamo anche i suoi bibliotecari. Oscilliamo tra l'entusiasmo e la delusione e viceversa. E a questo punto le informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Un importante esempio dei giornalisti bravi e indipendenti di cui ha parlato adesso Forno è stato certamente Alberto Cavallari, grande giornalista e anche direttore del Corriere della Sera. Il quotidiano fu diretto da Cavallari tra il 1981 e il 1984, nel periodo forse più difficile, quando Cavallari riuscì a risollevare il quotidiano milanese dalla crisi in cui era piombato per il coinvolgimento nelle vicende della P2. Di Cavallari, Aragno ripropone adesso una scelta di articoli e reportage che si intitola La forza di Sisifo. Il libro è curato da Marzio Breda, 258 pagine, 15 euro. Breda definisce Cavallari come un testimone non disposto a tacere, tantomeno a barare su nulla, uno spirito libero nel secolo delle catene ideologiche. E qui abbiamo la prova di questa grande capacità di Cavallari. Si comincia con un articolo del 1955 in cui il giornalista descrive il ritorno a casa in campagna di Luigi Einaudi, che è appena uscito dal Quirinale, e poi tante altre testimonianze e ritratti indimenticabili, da Greschelli a Berruti fino alla celeberrima intervista che Cavallari ottenne da parte di Papa Montini Paolo VI. Allora fu un evento, questa fra le primissime interviste concesse a un giornalista. E un capitolo del libro è dedicato ad alcune riflessioni sul giornalismo che chiamano in causa anche la responsabilità di tutti, giornalisti, editori, ma anche lettori, perché scrive a un certo punto Cavallari che il lettore sta diventando sempre più mercato e sempre meno pubblico. È lui che premia con l'alta tiratura il giornale merce più che il giornale opinione. È lui che sceglie il giornale con fotoporno oppure con memoriale scoop. È lui che preferisce la facile notizia clamorosa alla notizia controllata che richiede un'umile fatica. Chissà cosa scriverebbe Cavallari oggi. Sempre Aragno pubblica un'altra raccolta di articoli, questa di Riccardo Chiaberge, che è stata una nota voce agli ascoltatori di questa radio. Il libro si intitola Vespe, fatti e misfatti della cultura italiana negli anni di Berlusconi, 320 pagine, 15 euro, dove troviamo una serie di scritti polemici pubblicati sul Sole, sul Fatto Quotidiano e guidati sempre da un'intonazione critica su un certo modo di intendere la cultura. Scrive infatti Chiaberge di usare un po' di sano scetticismo nei confronti degli idoli e degli eventi osannati dei media, che aiuta i lettori, soprattutto giovani, a orientarsi meglio in una giungla di offerte che dà il capogiro e a compiere scelte più meditate. Vi segnalo poi un libro di Armando Massarenti, che è il direttore del supplemento domenicale del Sole 24 Ore, il giornale che pubblicato dall'editore di questa radio. che si intitola «Perché pagare le tangenti è razionale ma non vi conviene», pubblicato da Guanda, 138 pagine, 12 euro. Il libro si divide in quattro parti dedicate alla teoria dei giochi, a David Friedman, il grande economista figlio dell'altrettanto importante economista Milton Friedman, premiato con il premio Nobel, a Amartya Sen, e poi la prima parte che appunto dà il titolo al libro, dove troviamo delle riflessioni non moralisteggianti su un tema fondamentale. E scrive infatti Massarenti, ponendo la questione: individui razionali possono venire a capo dei loro dilemmi sociali senza il bisogno di un'autorità esterna? E Massarenti dimostra che non sempre questo è possibile. Ricorrendo alla teoria dei giochi e in particolare al famoso dilemma del prigioniero, si dimostra come in fondo è vero che potrebbe apparire razionali il pagare le tangenti, ma questo appunto dà il senso dell'importanza di un intervento esterno. Questo dimostra solo, scrive Massarenti ancora una volta, che non tutte le norme spontanee sono buone e che in certi casi un'autorità superiore di cui ci si possa fidare è proprio quello che ci vuole, ma è proprio questo che manca oggi in Italia. E questo ragionamento è introdotto con un dottissimo riferimento al lupo Alberto. Il confettino. Una parentesi di confettino con un libro dedicato appunto a Lupo Alberto. Sono tre storie pubblicate da Gallucci, 9,90 euro. Riprendiamo il nostro cammino tra i giornalisti con un filone particolare, quella dell'analisi del tessuto imprenditoriale del nostro paese. Vi presento due libri. Il primo è di Mauro Castelli, Primi nonostante tutto. Il bel paese raccontato dai suoi protagonisti. È pubblicato dal gruppo 24 ore, 308 pagine, 24 euro. Un'Italia che ha fiducia in se stessa. Questa è quella che vuole presentare Castelli, che viene così definita dal vice direttore del Sole 24 Ore nella prefazione, Elia Zamboni. E Dio sa di quanto c'è bisogno di quest'Italia che abbia fiducia in se stessa. Questa è un'Italia che ha saputo resistere anche alle ultime crisi, ed è il libro costituito da una serie di ritratti di imprese, alcuni magari meno note al largo pubblico, che hanno dato prova appunto con la loro attività del dinamismo e dell'intraprendenza propria dell'imprenditoria italiana. Sono imprese appunto che hanno saputo reagire alla crisi degli ultimi due anni con un'inventiva e capacità di conquistare mercati esteri. E le stesse doti sono quelle alle quali si rivolge in qualche misura, che vuole pubblicizzare, il libro di Nani Beccalli Falco e Antonio Calabrò, Il riscatto, l'Italia e l'industria internazionale, pubblicato da Bocconi, 212 pagine, 16 euro. L'Italia è in crisi di competitività, notano subito i due autori, che sono il primo un manager di una grande multinazionale e il secondo un giornalista attualmente manager in una grande industria italiana. Allora, Italia in crisi di competitività, dicevamo, ma il suo destino, secondo i due autori, non è necessariamente il declino o il trasformarsi in una terra di vacanze per il resto del mondo. È possibile un ragionevole ottimismo, come lo descrivono i due autori, leggendo il futuro dell'Italia come ricco di aspetti contrastanti e controversi. Il nostro paese ha ancora molti punti di forza, tra cui appunto la vitalità, l'intraprendenza, la vivacità delle energie imprenditoriali diffuse. Ma questo non è certo un libro fatalista, un libro che si appelli allo stellone, e queste risorse naturalmente vanno messe nelle condizioni di poter sprigionare le proprie potenzialità. E qui seguiamo il percorso di questo futuro possibile, un futuro in cui bisognerebbe riuscire a ridurre e a controllare il peso della burocrazia e della corruzione, a favorire la ricerca, a arginare le pretese del fisco e a restituire celerità alla giustizia civile. Uno sguardo retrospettivo sul capitalismo italiano è invece quello di uno dei suoi protagonisti, Cesare Romiti, che con Paolo Madrona ha scritto Storia segreta del capitalismo italiano, 50 anni di economia, finanza e politica raccontati da un grande protagonista, e pubblicato da Longanesi, 288 pagine, 14,90 euro. Di dolce durezza o di gentile franchezza, per usare le formule di Ferruccio De Bortoli nella prefazione, dà prova Romiti in questa intervista, quasi un interrogatorio, al quale egli si è sottoposto, offrendoci un quadro insolito del personaggio, ma soprattutto dell'intero sistema finanziario e produttivo italiano. E ne ricaviamo uno spaccato interessante in questo dialogo fra Romiti e Madrona, appunto sulla trasformazione del ruolo del manager. Anche ai miei tempi i manager erano diventati dei divi. De Benedetti e io stesso ne siamo degli esempi. Il problema non è il divismo, ma il fatto che il ruolo del manager si sia progressivamente degradato rispetto a quello di un tempo. Dal dopoguerra fino alla fine degli anni Ottanta, la figura del manager era di una persona molto attaccata alla sua azienda, spesso più ancora degli azionisti. Quando io sono arrivato in Fiat, quasi tutte le sue aziende erano in perdita e mi dannai l'anima per riportarle inutile. E ricordo ancora oggi l'orgoglio con cui l'annunciai all'avvocato. Era la vigilia di un Natale e gli comunicai la notizia per telefono. E cosa le rispose l'avvocato? Ascoltò con attenzione e interesse. Poi, come era sua abitudine, si limitò a farmi gli auguri per Natale. Vuol dire che oggi non ci sono più manager aziendalisti? Voglio solo dire che il manager che guarda molto al proprio tornaconto è figlio di un sistema che ha perduto certi valori e affievolito gli anticorpi che lo preservavano dalla degenerazione. Prima di salutarvi vi segnalo un'iniziativa di questa radio in occasione del 66esimo premio Strega che verrà assegnato il 5 luglio a Roma. Se andate sul nostro sito www.radio24.it potrete votare la vostra cinquina ideale e naturalmente scrivere la motivazione della vostra scelta. Tra le motivazioni più belle verranno scelte 5 e i fortunati ascoltatori potranno partecipare alla finale del premio Strega. Ospiti della nostra inviata Alessandro Tedesco, che comunicherà i nomi dei vincitori nella sua trasmissione Il Cacciatore di Libri il 30 giugno alle 21. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito che vi ho già ricordato www.radio24.it. Buona settimana a tutti, appuntamento a domenica prossima.